Zarano per scomparsi come Rino Gaetano. Vedi come gira il rap in italiano. 10 piegamenti alla Tiziano, mentre tutti si riaspettano il ritorno di Mina e Celentano. Qui tutto il resto è noia e te la canta Califano. Io non farò mai film alla Morandi Alfano, anche se questo sound risveglia il verano e manda in dritto ogni cazzo di anziano. Ancora si vive nel passato, i ricchi e poveri e Renato, Facchinetti suo figlio, ma no il malato. Ascolti Vasco, ma non ascolti il mio disco. Zarillo, Pausini, Ramazzotti, in faccia il Bigotti. Che cosa trasmette la Tatangelo? Stendiamoci un velo e ambrangiolini. Come la vedresti in quei provini vietati ai bambini? E il culo di Rihanna come canzoncina per la nanna. Stella stellina, c'è Giussi Ferré sulla Tiburtina. Ma non vada X Factor, perché il mio rap è poco adatto. Io non l'ascolto Mara Maionchi. Relax, tranchi, dopo un po' ci stanchi. Respira please, un'altra volta please, da rifarmi bis. Scatto sta foto cheese e dammi un bacio, ok kiss. Ancora si vive nel passato.